accarezzami, coprimi gli occhi prima che lacrime, anche se c'è chi pensa a me. Il ricordo che bagnava il volto ora non c'è. Veli stanchi cadono, stati sciolti per metà. Madre terra, cullami se non sai rispondere. Attimi segnano l'aria di crudeltà. Qui dove il cielo è terzo, qui dove il sangue è disperso. Il viso al cielo, l'azzurro mi accarezza, anche quando il sole si allontanerà. Allora avrò coscienza di scoprire il tempo, ora più che mai, che passa lentamente. Evito di dire, l'ho perso ormai per sempre, essendo in quell'età che provoca rimpianti insieme ai miei ricordi di piena sofferenza, ancora troppo viva per toglierla dagli occhi. Istinti ritrovati, la brezza sulla pelle, eliminando il buio, rendendolo impotente. Esco dall'oblio e lascio aperti gli occhi, in modo che domani a sognare torni.